Sta registrando. Che canto la faccia. Non ti passa più, te la sei voluta tu. Voli in Nicaragua e poi lavorare fatti tuoi. Livello 1, il caldo fotonico, quando ti sveglia tutti insieme alle 6. Signora sa, un gallo pinto così non l'ho mangiato mai. Livello 2, giro nel barrio, ma nel cantiere tu che intenzioni hai? Ti ha mandato il Boniardi, spero non ci deluderai. Poi di cosa dagli amici del bis, almeno per mezz'ora rilassiamoci qui. Ma da come parlano, sembra che ci dicano, bello non ti passa più. Te la sei voluta tu, voli in Nicaragua e poi cucinare fatti tuoi. Livello 3, i viaggi da panico, in 10 il taxi e la gallina sul bus. La giungla verde sulla panga, credo sai che vomiterà. Livello 4, gli altarini si scoprono, a nuova vita insieme c'è la sgobbar. Tra chiacchierate notti in bianco, spero che ce la si farà. Poi di corsa dagli amici del quiz, almeno per mezz'ora rilassiamoci qui. Ma da come parlano, sembra che ci dicano, bello non ti passa più, te la sei voluta tu. Voli in Nicaragua e poi censimento fatti tuoi. Livello 5, a volte si rompono, se tutti insieme nella maca si sta. E la mutanda non si stende, che il guardiano la muserà. Livello 6, infine ci siamo noi, non sarà tanto però ci basterà. Tra giochi, inchieste e teatrini, Nicaragua, eccolo qua. Io distinto te lo direi, in un posto del genere che cosa ci fai? Però in fondo è giusto così, perché sono sicuro che quel posto lì, bello non lo trovi più, e ci sei andato tu. Voli in Nicaragua e poi ti diverti più che puoi. Bello non lo trovi più e ci sei andato tu. Voli in Nicaragua e poi ti diverti più che puoi.